Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Un terremoto giudiziario e finanziario che potrebbe far tremare anche altri colossi del risparmio e toccare anche altri enti locali in Lombardia come in altre regioni. Il ciclone derivati è in moto e sta attraversando tutta la penisola. Dopo i sequestri senza precedenti voluti dalla Procura di Milano in 4 banche internazionali nell'ambito dell'inchiesta sulle emissioni obbligazionarie della città meneghina, nelle sedi di comuni e regioni di mezza Italia ci si interroga sul da fare e decine di chiamate stanno arrivando, soprattutto dai paesi più piccoli a Lanci, con una domanda ben precisa: che succede in caso di uscita dal contratto? La domanda che ci viene posta è proprio una lettura del contratto sottoscritto, quindi quale tipo di prospettiva ha il mantenimento di quel tipo di contratto, quale potrebbe essere invece la valutazione economico-finanziaria della fuoriuscita al mercato. Oggi l'unica cosa che si può fare essenzialmente è quello, chiuderlo, pagare, oppure continuare con il percorso che è individuato dallo strumento contrattuale che si è sottoscritto. Pagare e uscire è la strada scelta già da diversi comuni nell'incertezza degli sviluppi del proprio contratto derivato. A volerlo definire potremmo dire che è uno strumento finanziario stipulato su un altro già esistente e che potremmo considerare come una sorta di scommessa sul futuro. Ovviamente ce ne sono tanti e di diversi tipi. Quello sottoscritto dal Comune di Milano dopo l'emissione obbligazionaria da 1,7 miliardi nel 2005 avrebbe procurato, secondo l'accusa, profitti illeciti per 100 milioni di euro a 4 colossi della finanza: JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e DEPFA Bank. Ed è qui che uomini della Guardia di Finanza di Milano si sono presentati lunedì 27 aprile con in mano l'ordinanza del GIP Giuseppe Vanore che autorizzava il sequestro preventivo di 478 milioni come richiesto dal PM Alfredo Robledo, che da 2 anni indaga sui Madonnina Bond. A guidare il nucleo di polizia tributaria meneghino il colonnello Riccardo Rapanotti. Il sequestro non ha precedenti anche e soprattutto da un punto di vista quantitativo. Si inserisce questa attività nell'ambito di una più complessa indagine che è stata sviluppata dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano assieme ovviamente sotto la direzione della Procura di Milano, il Pubblico Ministero Dottor Robledo. Il reato ipotizzato è quello di truffa aggravata nei confronti del Comune di Milano e la truffa sarebbe stata posta in essere secondo l'ipotesi accusatoria da 4 banche straniere, le quali avrebbero dolosamente, volontariamente sottaciuto alcune condizioni contrattuali che erano particolarmente negative per il Comune di Milano e invece di contro estremamente positive e vantaggiose per le banche stesse. In base alle disposizioni normative il Comune di Milano poteva effettivamente ristrutturare questo debito, cioè un debito pregresso che era particolarmente oneroso, però avrebbe potuto effettuare questa ristrutturazione soltanto svolgendo un calcolo di convenienza economica, cioè il nuovo debito avrebbe dovuto essere più vantaggioso rispetto al vecchio. Nelle condizioni contrattuali questo però non traspariva, cioè le banche hanno appunto sottaciuto alcuni elementi fondamentali che se fossero stati portati alla luce correttamente avrebbero indotto il Comune evidentemente a non sottoscrivere quel nuovo tipo di contratto. Quindi la presunta truffa che viene contestata alle 4 banche e agli indagati consiste nel non aver dato notizia, comunicato le clausole che avrebbero reso più vantaggioso per il Comune questo tipo di contratto. Sì, esattamente. Si tratta di un contratto che prevedeva l'emissione di un prestito obbligazionario e a fronte del quale era stato poi sottoscritto un contratto in derivati. Come lei sa, i contratti in derivati sono talvolta particolarmente complessi e nella strutturazione di questo contratto sottostante sono state omesse alcune indicazioni che hanno portato effettivamente il Comune di Milano a credere che a fronte dell'operazione nuova avrebbe dovuto pagare soltanto alcune commissioni di basso importo, pari allo 0,01% del nozionale, cioè del valore del prestito obbligazionario. In realtà poi si è ingenerato un profitto che era già conosciuto ab origine dalle banche per 100 milioni di euro appunto per le banche stesse, che si è tramutato in un danno concreto per il Comune di pari importo. Da qui un sequestro in 4 banche, che cosa vuol dire? Fare dei sequestri in 4 banche, che cosa vuol dire? In realtà si tratta soltanto di una tutela che deve essere appunto prevista a fronte dell'illecito profitto che le banche hanno effettivamente realizzato. Quindi sostanzialmente quando sarà terminata l'inchiesta e quindi si procederà alla confisca dei beni nei confronti delle banche, cioè la confisca del profitto del reato che è appunto pari a 100 milioni, ci si rifarà a quelli che sono i beni che attualmente sono stati sottoposti a sequestro come, ripeto, cautela per quel debito che le banche poi avranno nei confronti dell'erario italiano. Quindi a che cosa corrispondono quei 478 milioni posti sotto sequestro? Allora diciamo che, ripetiamo, il danno arrecato al comune è pari a 100 milioni, quindi non è pari a 478 milioni. Però nei confronti di ciascuna banca è stato emesso un decreto di sequestro pari sostanzialmente, diciamo più o meno, alla somma dei 100 milioni e quindi da qui lo sviluppo di 478 milioni sottoposti a sequestro, perché ciascun soggetto indagato è responsabile in solido con gli altri, quindi ciascuno ha dovuto prestare, diciamo, delle garanzie a copertura di quello che sarà poi il debito da versare all'erario. Colonnello, ma in concreto che cosa è stato sequestrato in queste quattro banche? I sequestri hanno riguardato principalmente quote azionarie riferibili alle banche e in un caso, laddove le quote azionarie non erano sufficienti a coprire l'importo da sottoporre a sequestro, anche degli immobili di proprietà delle banche stesse e in alcuni casi anche dei conti correnti delle banche stesse, quindi non di clienti delle banche, ma di disponibilità liquide riferibili alla struttura societaria bancaria. Che quindi in caso in cui a compimento di tutto quanto l'iter giudiziario dovesse essere confermate tutte le accuse, queste passerebbero sotto la proprietà della giustizia italiana, della Procura di Milano? Sì, attraverso l'istituto della confisca. Secondo l'iter tradizionale dei sequestri e poi delle confische. Nei bilanci delle banche, le banche contano e segnano anche la loro liquidità, le loro azioni, quindi in questo momento nei bilanci di queste quattro banche, nei bilanci dell'anno scorso, c'erano anche questi 478 milioni in varie forme che sono state poste sotto sequestro. Nel momento in cui tutto questo dovesse essere confermato, non potranno più essere messe a bilancio, ma ne dovranno tener conto inevitabilmente, quindi ci saranno delle ripercussioni anche nei bilanci delle banche. Ma questo evidentemente sì, verosimilmente potrà esserci un passaggio per il quale i beni sequestrati verranno sostituiti da disponibilità liquide e chiaramente queste disponibilità liquide usciranno dalle casse, materialmente dalle casse delle banche, con dei riflessi ovviamente sui loro bilanci. Veniamo alla specificità un po' di questa inchiesta che riguarda il Comune di Milano. Innanzitutto una curiosità, doveva essere un'emissione obbligazionaria tra le più grandi d'Europa, se non la più grande? Ma secondo un rilevamento statistico sì, probabilmente è stata la più grande emissione di un prestito obbligazionario effettuato da un ente locale non soltanto a livello nazionale ma anche a livello europeo. Però, ripeto, è un dato statistico, un'osservazione statistica, quindi l'indebitamento precedente del Comune di Milano era sicuramente sostanzioso. Attraverso questa nuova operazione il Comune riteneva nell'anno 2005 di poter appunto coprire, restituire i vecchi mutui, le vecchie passività e così svincolare anche delle liquidità per le attività istituzionali. Il prestito obbligazionario emesso nell'anno 2005 era pari a 1 miliardo e 600 milioni, e probabilmente il più alto prestito obbligazionario mai emesso da un ente locale. Questo però non significa che il Comune di Milano fosse l'ente più indebitato. Ecco, veniamo un po' alla specificità di questa inchiesta. Innanzitutto, ecco, ancor prima che arrivasse da voi e quindi in procura un esposto sollevato da esponenti dell'opposizione dell'amministrazione lombarda, voi già stavate lavorando su questo filone? Ma l'attività di indagine nel settore finanziario è una competenza specifica della Guardia di Finanza, quindi posso sicuramente confermare che c'era un monitoraggio in corso di attività di questo genere. Sulla base di che input era partita questa indagine? Attività istituzionale interna che è volta anche alla ricerca delle eventuali violazioni di carattere finanziario. Ecco, ora che questa inchiesta è arrivata già ad un primo importante punto, che cosa, ecco, dietro questo sequestro c'è ovviamente tutta la vostra attività investigativa, che cosa è stato raccolto in tutti questi mesi di indagine, sia come diciamo dichiarazioni di teste piuttosto che di indagati e che poi diciamo è confluito anche nel provvedimento di sequestro del giudice? Ma innanzitutto è stata raccolta una copiosa documentazione, chiaramente, che afferisce a tutte le operazioni finanziarie poste in essere dalle banche. Quello che emerge, quelle sono le risultanze investigative, diciamo, facendo il punto ad oggi, sono che sia i testi, ma anche gli stessi soggetti indagati, con riferimento appunto ai funzionari del Comune di Milano, fanno riferimento ad una responsabilità principale delle banche che per prime hanno appunto stipulato e redatto i contratti in questione. Ci faccio qualche esempio: una responsabilità delle banche nella scarsa chiarezza. Ecco, come hanno raccontato le fasi della stipula di questo contratto, sia testimoni che indagati? Ma sicuramente, come è stato detto anche all'inizio, no? È un po' la sostanza della truffa è questa, quella di aver sottaciuto alcuni aspetti molto importanti, quindi violando dei doveri di trasparenza, tant'è che anche sotto il profilo appunto civilistico possono esserci dei problemi con riferimento alla violazione della normativa inglese, poiché le banche avevano sede a Londra, e quindi è stato proprio violato un dovere di informazione, che è un dovere deontologico che le banche devono avere nei confronti di ciascun cliente, quindi ovviamente anche nei confronti del Comune di Milano. Il Comune di Milano, nella stipula di questo contratto, come è stato considerato dalle banche sottoscrittrice? Il Comune di Milano non è stato ovviamente trattato alla stessa stregua di un normalissimo cliente, proprio perché, trattandosi di un ente pubblico, doveva essere ritenuto in grado di avere un maggiore e più facile accesso a tutte le clausole contrattuali. Tuttavia anche questo specifico aspetto doveva essere portato a conoscenza del Comune, cioè che l'attività di informazione sulle clausole contrattuali era di livello inferiore proprio per la capacità del Comune stesso di poter recepire ogni singola clausola. Anche questo fa parte integrante degli artifici e raggiri posti in essere dalle banche nei confronti del Comune. Il riferimento al diritto inglese, perché? Perché questo contratto è stato stipulato a Londra? Ma la piazza londinese, come sappiamo, è una delle piazze principali per quanto riguarda il mercato finanziario. Le banche avevano sede nella città londinese, è stata una scelta contrattuale di stipulare il contratto nella City londinese, una scelta sempre operata dalle banche. Quindi con riferimento al diritto inglese? Con riferimento alla normativa inglese sulla stipulazione dei contratti di questo genere. Storielle. Storiacce. L'esperienza della crisi ha confermato che i prodotti derivati in generale e gli strumenti innovativi per il trasferimento del rischio sono armi a doppio taglio. Se adoperati senza adeguata considerazione dei rischi, consentono una moltiplicazione senza controllo della leva finanziaria. Infine, quando gli strumenti vengono offerti al pubblico, deve essere rafforzata la protezione del contraente debole. È proprio questo che sarebbe mancato a Milano, secondo le ricostruzioni della Procura. L'indicazione del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, sarebbe stata disattesa all'ombra del Duomo, allorché sotto l'amministrazione del sindaco Gabriele Albertini si arrivò ad un'emissione obbligazionaria da 1,7 miliardi di euro nel 2005. E in complicatissimi calcoli di swap e dietro clausole sottaciute si celava, secondo il PM Alfredo Robledo, una truffa ai danni del Comune ad opera di quattro banche. E truffa è l'accusa ora contestata a dirigenti e funzionari indagati insieme ai quattro istituti JP Morgan, Deutsche Bank, UBS e DEPFA Bank, dove è stato messo in atto il sequestro preventivo voluto dal PM. I quattro istituti sono indagati in base alla legge sulla responsabilità d'impresa, la 231, perché non sarebbero stati in grado di prevenire i reati commessi dai loro funzionari e per aver tratto benefici economici dalla condotta illegale. Così a Milano. Ma com'è la situazione negli altri 735 comuni italiani che hanno concluso operazioni di questo genere, arrivando a circa 35 miliardi di obbligazioni? La percentuale più alta, calcolò la Corte dei Conti nella sua relazione, si concentra in Lombardia con 93 enti locali e in Campania 66. Ben 82, sottolinea la Corte, hanno popolazione inferiore ai 2.000 abitanti e 181 tra i 2.000 e i 5.000, dunque piccoli centri, e sono soprattutto questi che si stanno ora allarmando. Alcuni hanno già chiuso il contratto pagando, altri stanno trattando, altri ancora, come la città dell'Aquila, ce l'hanno all'ordine del giorno. Contemporaneamente anche gli uffici giudiziari si stanno muovendo e richieste di consulenze sono arrivate in procura a Milano da molte parti, da Firenze, Aquitania, Terme, Vicenza, solo per dirne alcuni. E molte chiamate stanno arrivando anche al nucleo di polizia tributaria di Milano, che ha seguito l'indagine. A guidarlo il colonnello Riccardo Rapanotti. Queste quattro banche avevano la doppia veste di essere già consulenti del comune, quindi advisor, e poi successivamente sono stati le finanziatrici, i finanziatori di questo contratto in derivati. Cioè, già in questa doppia veste c'era una spia di un'anomalia? Sì, diciamo innanzitutto sicuramente è una spia di un'anomalia, anche se va precisato che da un punto di vista strettamente formale non sono mai state nominate le banche come advisor formalmente. È chiaro che hanno predisposto loro i contratti e quindi chiaramente erano ben consapevoli di tutte le clausole contrattuali contenute nei contratti stessi. È emerso che a stipulare questo contratto ci siano stati anche dei funzionari della Comune di Milano, che hanno candidamente anche ammesso di non parlare inglese, non, almeno non così sufficientemente bene. Sì, questo è vero, e anche perché poi l'inglese tecnico utilizzato nella stipulazione dei contratti può essere anche più ostico dell'inglese ordinario, chiaramente. E se il Comune da questa inchiesta sembra emergere come la parte lesa di questa contrattazione, allo stesso tempo però il fatto che questi contratti siano stati stipulati da funzionari che poi ora raccontano, dichiarano di non essere così tanto addentro nella materia, di non conoscere l'inglese tecnico, potrebbe chiamare in causa anche delle forme di responsabilità stessa dell'ente locale? Il paragone mi viene in mente quella che per le imprese è la legge sulla responsabilità delle imprese, la 231. Si può pensare a qualcosa di analogo anche per gli enti locali, oppure la struttura esistente è sufficiente? La struttura esistente è sufficiente, la legge 231 non si applica per gli enti locali e quindi la responsabilità era in capo appunto alla direzione generale preposta alla verifica dei contratti e al consulente esterno che era stato nominato, tant'è che entrambe le figure risultano tra i soggetti indagati per il medesimo reato di truffa. Queste emissioni obbligazionarie partivano da una precedente operazione stipulata ancor prima, nel 2002. Che fine ha fatto la parte originaria di queste emissioni? Sì, come abbiamo detto in precedenza, il Comune di Milano ha ristrutturato un vecchio debito. Su questi vecchi debiti c'era anche pendente un contratto in derivati. Il contratto in derivati doveva essere estinto unitamente al vecchio indebitamento. In realtà, proprio nella ristrutturazione del debito, le banche non hanno tenuto conto appunto dei costi connessi all'estinzione del derivato e questo ha appunto generato una serie di costi cosiddetti impliciti per il Comune di Milano, che fa parte integrante di quel danno arrecato inconsapevolmente al Comune inconsapevolmente per il Comune dalle banche stesse. Quindi quella prima parte di contratto derivato sottoscritto con Unicredit nel 2002 non entra nell'inchiesta? No, non entra nell'inchiesta se non come aspetto che doveva essere appunto considerato come clausola contrattuale, perché proprio per l'estinzione di quel vecchio contratto in derivati doveva essere sostenuti dei costi che dovevano essere appunto portati all'evidenza del Comune di Milano. Qual è il quadro che emerge mettendo insieme, incrociando racconti, profili e anche biografie, no, dei personaggi coinvolti in questa indagine? Alcuni di loro avevano anche precedenti rapporti, precedenti conoscenze. In realtà su questo aspetto al momento non ci sono assolutamente evidenze investigative. Però erano tutte persone che si conoscevano da un bel po'. Sì, questo sì, però non ha questo necessariamente una rilevanza con riferimento all'indagine in corso. Queste quattro banche sono ora sotto accusa, si indaga per altre emissioni anche negli Stati Uniti. C'è qualche contatto tra la vostra inchiesta e quella americana, qualche scambio di informazioni, e si indaga, a quanto vi risulta, anche su prodotti analoghi? Anche gli organi di stampa hanno riportato appunto delle inchieste che vengono svolte anche oltreoceano. In realtà, con riferimento a questa indagine specifica, non abbiamo avuto dei contatti né diretti né indiretti, quindi è stata un'indagine sviluppata squisitamente in Italia, quindi un'indagine italica a tutti gli effetti. Ma che voi sappiate, i prodotti, le emissioni su cui indagano anche negli Stati Uniti hanno delle analogie con quelle da voi studiate qui in Italia, a Milano? non sono in grado di dirlo, non ci risulta proprio per quello che dicevo prima, nel senso che non abbiamo avuto contatti diretti con operazioni analoghe a quelle poste in essere con il Comune di Milano. Invece, per quanto riguarda l'Italia, questa inchiesta, si è detto, farà da apripista per molte altre procure, per molti altri uffici inquirenti. Ci sono ben oltre 700 i comuni che hanno dei derivati in tasca, che quindi in questo momento sono in allarme. Avete anche voi ricevuto, almeno così sotto forma di richieste informative, un aiuto dai vostri colleghi di altre città italiane? Ma si ritiene che sicuramente questo tipo di indagine sarà un po' una linea guida anche per lo sviluppo di future indagini anche presso altre procure e quindi da parte anche di altri reparti del corpo. Quello che risulta è che gli enti locali nazionali hanno contratti per circa 35 miliardi di euro, quindi sono somme cospicue. Quello che bisognerà vedere non è tanto la stipula di contratti in derivati, che di per sé non sono prodotti negativi, non sono prodotti tossici di per sé. Quello che andrà verificato sarà proprio la stipula del singolo contratto e verificare se anche altrove vi siano state clausole contrattuali omissive che abbiano determinato dei danni per gli enti locali sottoscrittori. Mi risulta che però già da qualche altra città d'Italia vi siano, quantomeno in modo informale, dei colleghi abbiano chiesto un po' delle indicazioni. È un'indagine che farà un po' scuola, è un po', servirà da linea guida, no? Quindi il precedente di indagine, soprattutto avendo portato risultati così importanti e interessanti, sarà chiaramente oggetto di studio e di divulgazione presso altri comandi, laddove questi abbiano bisogno di effettuare approfondimenti di questo genere.